Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. This year will be remembered as a year when common sense conservative women get things done for our country. All across this country, women are standing up and speaking out for common sense solutions. These policies coming out of DC right now. Si sta parlando parecchio di questo cortometraggio, video, manifesto, se volete chiamarlo anche in questo modo, che Sarah Palin e lo staff di Sarah Palin hanno messo in circolazione su YouTube, poi naturalmente ripreso da tante televisioni, addirittura vivisezionato nei talk show, intitolato Mama Grizzlies, questo è il titolo, Mamma Orso, Mamma Orsa, oddio, su questo devo ancora riflettere. Comunque, che cos'è? È un'idea di una piattaforma, sarebbe meglio dire di una nuova icona per quella che a tutti gli effetti sembra già essere la più probabile, quasi certa candidata alle primarie repubblicane, ovvero la prima alle cui intenzioni ormai sono piuttosto trasparenti. Poi ce ne sono anche altri, siamo a 2 anni abbondanti dal voto, ma siamo in realtà a pochi mesi dalla discesa in campo, ovvero dalla dichiarazione di intenzione di partecipare poi a quelle primarie che andranno in scena tra circa 16-17 mesi, come sempre a partire dall'Iowa. E Sarah Palin, che come forse ricorderete un anno fa ha lasciato la sua poltrona di governatrice dell'Alaska, è diventata a tutti gli effetti una libera cittadina americana che scrive libri, fa conferenze, promuove le sue iniziative, si fa anche profumatamente pagare a questo scopo, ora sta lentamente tracimando di nuovo verso la politica attiva. Non ha mai fatto mistero di queste sue ambizioni, ma naturalmente doveva trovare una forma, doveva trovare un'idea e doveva ripartire dai risultati molto buoni, ma anche controversi ottenuti allorché nell'agosto del 2008 venne estratta letteralmente dal cilindro, dallo staff di John McCain, che la prescelse come inattesa compagna di ticket per il candidato repubblicano alla Casa Bianca, e fece con lui a braccetto, ma anche in certi casi un po' con una certa contrapposizione tra i due personaggi, fece insieme la campagna, perdendo in modo onorevole, e poi soprattutto abilmente nelle ultime settimane della campagna, distaccandosi da un candidato che stava evidentemente andando a fondo e ponendo tutto al futuro, le sue aspirazioni. Si è detto che Sarah Palin doveva studiare molto, che era un fatto che piacesse molto agli americani il suo approccio, il suo stile così naif, così ruspante, così diretto, così America al di fuori delle metropoli, così quindi vicino a determinate prerogative originali che agli americani restano molto care. Ma si diceva anche che Sarah Palin poi doveva studiare per diventare veramente una politica di serie A, per capire quali gli argomenti e quali le competenze necessarie per affrontare un obiettivo di questo genere. E come dire, ci hanno pensato parecchio, ci hanno lavorato attorno, e adesso è uscito fuori questa idea rappresentativa di porre Sarah Palin alla testa di un movimento. Ma tra poco vedremo quale movimento, perché nel frattempo succedono altre cose. Us Weekly is reporting that Bristol Palin and Levi Johnson are going to get married after all. Yeah, there you go, daughter of succede che i rotocalchi anche si interessano alla famiglia Palin, perché come forse ricorderete, Palin, oltre che il cognome di Sara, è anche un po' un marchio di fabbrica stilistica per un approccio familiare contemporaneo americano stravagante. È un po' una famiglia allargata, è un gruppo strano, è un po' una soap opera vivente, i Palin, no, della lontana Wasilla nell'Alaska. Ebbene, l'America in questa operazione di sapiente riavvicinamento di Sara Palin alle proprie ambizioni politiche, ha avuto un'altra notizia che l'ha scossa, l'ha anche certamente divertita, ovvero Bristol Palin, un po' la pecora nera della famiglia, la giovane figlia di Sara, si è nuovamente fidanzata e starebbe per sposarsi con il suo storico fidanzato, questo Levi Johnston, che ne ha fatte più di Carla in Francia, insomma la mise in cinta quando erano in corso proprio le operazioni per la candidatura presidenziale di mamma Sara, poi litigò con la famiglia, poi addirittura si fece fotografare da un giornale osé per ragazze, Play Girl, pensate un po', e adesso invece è tornato all'ovile, sulla copertina di US Weekly ci sono Bristol e Levi con bambino nel frattempo nato annesso e lo strillo stiamo per sposarci, quindi una sistemata anche alle questioni familiari è stata data, ma poi soprattutto si è inventato un nuovo marchio di fabbrica. Vi ricordate il pitbull con il rossetto, il barracuda, sempre questo immaginario animalistico riferito a Sara Palin, o vi ricordate le sue apparizioni a Saturday Night Live, no? Facendo il verso alla cacciatrice di alci della lontana Alaska. Adesso Mamma Orsa è arrivata. Chi è Mamma Orsa? È quella che difende i cuccioli contro le minacce esterne, quella che si preoccupa del futuro dei suoi ai piccoli ed è pronta a morire per essa. Questo questa è l'icona che Sara vuole portare avanti in questa sua campagna elettorale, dove andrà in cerca dei voti dell'America conservatrice, restando però al di fuori da quell'immaginario ormai un po' consunto del Partito Repubblicano e delle sue connessioni con il potere di Washington. Sara Palin vuole fare una corsa a parte, sarà una corsa probabilmente alla testa dei cosiddetti tipi Parties, ma che poi dovrà imparare a coinvolgere anche tanta altra America, perché solo con i Tea Parties non si va certamente da nessuna parte, ma vuole essere una corsa soprattutto, e questo è il fattore 2010, questa notizia, una corsa che ha ben poco di politico e temiamo anche ben poco di programmatico, anche se, come dicevamo, la competenza è certamente la prima necessità per guidare una nazione inguaiata come l'America d'oggi. Invece la candidatura di Sara Palin avrà molto di immaginario, molto di televisivo, no? Molto di casa nella prateria, insomma la mamma Orsa è qualcosa che ci sembra far risuonare, no? Telefilm telefilm americani di una volta. Però l'idea c'è, l'idea è forte, l'interesse nei confronti di questo manifesto video in cui lei grida, chiama le donne, perché è un messaggio prima di tutto femminile che va a toccare là dove non toccò Hillary Clinton, ovvero l'essere oltre che brave e innovatrici politiche anche madri. E allora vedremo se Mamma Orsa ha davvero, come dire, le gambe per la politica americana in vista del 2012. I will do anything that you want me to do now. Say anything that you want me to say, yeah. I can buy you anything you want me to buy. And I'm gonna cherish you, baby, till the day I die. Anni 10. Parole. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. Insomma, ci abbiamo un po' consumato, no? Molti sforzi, molto immaginario, molte prospettive, molti ragionamenti su tutto ciò che è successo prima, durante e dopo questo discorso, quello che Barack Obama pronunciò la notte della vittoria a Chicago. Vi abbiamo parlato nella introduzione di oggi di anni 10 di una idea, di una candidata, di una candidatura certamente opposta a quella di Barack Obama, perché rappresenta la Right America, l'America conservatrice, di Sara Palin, che guarda a una speranza elettorale per il 2012 volando basso, insomma puntando a una sloganistica di stampo televisivo, a toccare nuovamente l'immaginario degli americani senza farli pensare, ragionare troppo sulla competenza alle spalle poi di quella che è una presentazione così iconografica grafica, ma anche così diretta, anche così intensa come quella del personaggio di Sarah Palin, la mamma orsa. E invece, qui siamo nell'area delle parole scritte, della pubblicistica internazionale, di cui vale la pena tener conto per imparare qualcosa in più, scopriamo, grazie a un libro che fa della sistematicità e non certo l'immaginario il proprio filo conduttore, come sarebbe andata veramente in casa Obama. Il libro si chiama The Obama Victory: How Media, Money and Message Shaped l'elezione del 2008, the 2008 election, ovvero la vittoria di Obama, come i media, il denaro e il messaggio ha dato luogo, ha dato forma alla vittoria elettorale del 2008. Ci sono messi in tre più altri aiutanti a scrivere questo libro, che non è una ricostruzione peraltro ampiamente ormai svolta dei fatti attorno alla vittoria di Barack Obama, ma è un'analisi metodologica degli strumenti necessari, sufficienti, indispensabili per vincere una elezione in America all'inizio del XXI secolo, appunto negli anni 10. Quindi è un libro di numeri, è un libro di percentuali, è un libro di causa-effetto: spendere tanto per ottenere altrettanto, investire qui per ottimizzare appunto un investimento, attraverso le tre voci che nel sottotitolo illustrano il progetto vincente, appunto, almeno nel primo mandato di Barack Obama, ovvero l'utilizzo dei media, l'utilizzo del denaro e la confezione del messaggio da recapitare agli elettori. Secondo i tre autori del libro, che si chiamano Kate Kensky, Brass Hardy e Kathleen Jamison, è stata tutta questione di tecnologia e scientificità, ovvero se alle spalle di Barack Obama non avesse agito una specie di think tank, di squadra speciale di attenti e acuti analisti dei numeri, degli investimenti, tutto ciò non sarebbe successo. La tecnologia, secondo gli autori, è qualcosa della quale una elezione oggi non può più fare a meno, se è vero che bisogna seguire neologismi come quelli prodotti da questo libro, come il micro-targeting, il micro-obiettivo da conseguire suddividendo, specializzando, raffinando sempre più le analisi del campo elettorale e degli elettorati da conquistare. Poi naturalmente il discorso del denaro: non si va da nessuna parte se non si può attingere, sostengono gli autori, a tutti i soldi necessari per raggiungere i propri obiettivi. In questo Obama ha stabilito ogni record possibile, se è vero che ha messo insieme qualcosa tipo 750 milioni di dollari in sede di raccolta fondi a sostegno delle sue primarie e delle sue elezioni generali, elezioni presidenziali, e se è vero che ha speso 350 milioni per il solo duello presidenziale con McCain, a fronte degli 85 spesi da McCain, il rapporto è 4-1, e anche in questo naturalmente risiede buona parte del segreto del suo successo. È un libro per specialisti, è un libro sicuramente la cui lettura può servire anche altrove, dall'America, laddove presenta le modalità ormai ripetibili, no? Riusabili di un metodo che ha condotto a un tale risultato. Poi, se tutto ciò sia definitivamente efficace, ovvero se l'immagine, no, di mamma orso e tutta l'approssimazione e la passionalità che può coinvolgere una operazione di quel genere possa essere seriamente contrapposto a una scientificità, a una tecnologia delle campagne elettorali, è forse l'interrogativo con il quale faremo i conti già dalla elezione 2012. Sex in America has changed and behavior has changed dramatically. When I first published Playboy magazine, and certainly when I grew questo è l'uomo che ha cambiato il sesso in America e se me la passate un po' anche nel mondo. Si chiama Hugh Hefner, è il fondatore, l'inventore soprattutto di Playboy. E ve ne abbiamo parlato qualche tempo fa perché su Playboy è uscito un bellissimo saggio di cui vi ricordo ancora l'esistenza, perché analizza il rapporto, no, tra il consumatore e la possibilità di accedere a un consumo del sesso che non sia clandestino, che non sia fonte di paura e di vergogna assai particolare, come capitò nell'America degli anni 50 anche grazie allo sdoganamento di una rivista come Playboy. Il libro in questione a cura della sociologa di Chicago Elizabeth Fraterigo si chiama Playboy and the Making of Good Life in America, Playboy e la realizzazione di una buona vita in America, mentre la notizia che arriva adesso è che Hefner, alla venerabile età di 84 anni, torna in scena pesantemente. Sembrava quasi ormai ritirato, sembrava anche una figura che stesse sprofondando in un certo senso in un certo patetismo, no? Il ranch, le ragazze maggiorate, le sue apparizioni prezzolate e quant'altro. Invece adesso torna in scena nel mondo degli affari perché vuole ricomprarsi tutte le azioni, tutti i dividendi di Playboy sparsi per il mondo e vuole rifarlo tutto suo e vuole ricominciare come fosse la prima volta, per un motivo molto semplice: pare imminente il giorno in cui la Cina aprirà le proprie porte fin qui chiuse a Playboy, e quindi Playboy potrà attaccare quel miliardo e rotti di possibili clienti, forse con un immaginario che potrebbe ripercorrere, riveduto e corretto, proprio lo stesso percorso, no, di sdoganamento di cui dicevamo prima, accadde 50 anni fa, mezzo secolo fa per l'America, potrebbe riaccadere adesso in Cina. E Hugh Hefner, che è un innovatore ma è anche un astuto uomo d'affari, sente evidentemente, come dire, l'odore di dollari. I think I'm lucky, I have friends who actually work in the business, and especially friends who work in new materials and new ways of making things. And I think that there's e adesso sentiamo parlare di moda. Questo è un uomo che abbiamo ascoltato con molta attenzione durante gli anni 90, perché era un romanziere che in quel momento aveva veramente il tocco delle cose, aveva il segno, no? Sentiva il battito, il ritmo delle nuove generazioni e riusciva a raccontarle in modo impareggiabile. Si chiama Douglas Copeland, ha neanche 50 anni, ha 49 anni, è l'autore di Generazione X, forse il libro che meglio di ogni altro racconta la generazione apatica, indolente, confusa, incerta degli anni 90. È autore di molti altri romanzi in cui ha sempre più affinato la sua capacità narrativa vera e propria, peraltro pubblicati tutti in Italia. Vi ricordo qualche titolo: Fidanzata in coma, Microservi, Miss Wyoming, l'ultimo si chiama Ei Nostradamus. Ma adesso ha cambiato genere, ovvero ha deciso di darsi alla moda, e questa notizia è piuttosto divertente perché riguarda proprio lui, e quindi non uno che si improvvisa, ma uno che sempre nel corso dei suoi libri ha coltivato il gusto per il design. I suoi libri sono pieni di descrizioni e di una visualità intensa e anche estremamente contemporanea e spesso innovativa. Si chiama Roots, Radici, il suo marchio di moda. È molto divertente perché vuole avere una specializzazione canadese. Lui è canadese, ma viene sempre pensato come americano. Invece dice: no, guardate, io vengo proprio dalla terra delle alci e delle giubbe rosse, voglio però sfatare questo luogo comune che riguarda la mia nazione. Il Canada è tante altre cose: è tecnologia, è innovazione, è colore, è avventura, è comunicazione, è apertura mentale. Voglio fare una linea di moda che racconti tutto questo. Hi Bina. I'm glad to meet you. Are you ready for a conversation with me? Only with you. Bina, vuoi parlare con me? Questa è solo una segnalazione, ve la do rapidamente, poi potrete consumare con calma a casa vostra il pezzo in questione. È una a dir poco commovente, forse anche stravolgente, intervista con un robot di ultimissima generazione. Vi garantisco che c'è di che vedere. Si chiama Amy Harmon, la giornalista del New York Times che ha fatto questa intervista. Lei si chiama Bina 48. Esprime, direi, più che dati, informazione, sapienza, competenza, quello di solito sanno fare i computer, esprime sentimenti. Guardatevi questi 5 minuti sul sito del New York Times. Basta digitare intervista con un robot, interview with a robot, e arriverete a questa visione che credo vi lascerà intravedere davvero uno spicchio di futuro. Do me wrong, honey, if you wanna. You can do me wrong, honey, while I go. All I'm asking is for the respect when I come on. Yeah, now. Sweeter than honey, and I'm about to give you all of my money. All I want you to do, just give it, just respect when I come on. Ooh yeah, hey, hey. Anni 10, suoni. Are you ready for start time? Right now, ladies and gentlemen, it gives a great pleasure to present to you the young man you've waiting so patiently for, the young man that sings such songs that's pain in my heart. I'm depending on you. I got to have some respect. So let's welcome to the stage with a great big round of applause, the star of the show, the one and only vocal recording star, Otis Redding. I'm on security, yeah. Without it, I'm at a great loss. Oh, now, security, yeah. And I want it at any cost. Security, I give all of these things, all of these things. Anche in Italia lo conosciamo bene, Otis Redding, praticamente subito divenne famoso, amato anche dalle parti nostre, ma forse molti di voi non sanno che la vita di Otis Redding è durata pochissimo, soltanto 26 anni, poi un incidente aereo la troncò, un piccolo aeroplanino finì in un lago del Wisconsin mentre correva a destra e a sinistra per l'America nel tentativo di far definitivamente decollare la sua carriera artistica. Insieme a lui morirono anche quattro membri della sua band, i Bar Keys, no? La band che lo accompagnava e che sentite in sottofondo. Pensate che Dock of the Bay, no? Il brano per antonomasia più noto, più amato in tutto il mondo di Otis Redding, anche nei nostri anni 10, mezzo secolo dopo circa che è entrato in circolazione, uscì già postumo, era stato registrato solo pochi giorni prima dell'incidente aereo di Redding, e quando uscì sul mercato e poi entrò in classifica e andò al primo posto delle classifiche, Otis se n'era già andato. Una segnalazione che ci sembra indispensabile, anche perché magari può non rientrare nei vostri radar, perché Rhythm and Blues lo si sente, lo si ama, ma difficilmente ormai c'è una attenzione mediatica su questa musica, che poi è davvero luogo comune globale. È questo straordinario, formidabile doppio CD appena uscito. Si chiama Otis Redding Live on the Sunset Strip, dal vivo sul Sunset a LA, ed è in realtà la registrazione integrale di tre concerti, di tre set per meglio dire, eseguiti da Otis Redding e dai Bar Keys al Whiskey a Go Go, che se c'è un locale leggendario di Los Angeles dal punto di vista musicale è proprio questo, WAG lo chiamano quelli che la sanno lunga. Pensate un po', dove anche i Doors ad esempio ebbero il loro battesimo del fuoco, e dove Janis Joplin era sempre di casa, e dove anche Otis Redding si esibì alla conquista della California. I tre set sono set, non concerti, perché che succedeva? Succedeva che la band in questione, l'attrazione di quelle serate, usciva fuori più volte, no? Usciva, faceva una mezz'oretta, poi se ne andava a riposare, a bere una birretta, e dopo una ventina di minuti tornava fuori. Questi erano set in cui addirittura spesso venivano risuonati dei pezzi già suonati, anche perché il pubblico magari cambiava e venivano ascoltate le richieste, venivano fatte molte cover. Otis Redding e i suoi erano una band anche di questo genere, in grado di fronteggiare, come dire, qualsiasi richiesta da parte del pubblico. Il suono è sexy, è elettrico, è travolgente, è dà tutto il senso di un artista formidabile nel suo momento, no? Nel suo momento magico. Ascoltiamo ancora Otis Redding. Questo è un super classico. I've been loving you too long. Oh, man. I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, oh, oh, and don't make me stop now. Oh, baby, I'm dying on my knees. Beh, insomma, è veramente un ritorno straordinario, anche inatteso, insperato, questo di Otis Redding. Vi ricordo il titolo di questo doppio CD, si chiama Otis Redding Live on the Sunset Strip, per assaporare davvero la che cosa era, che cosa poteva essere una serata di quel genere in un luogo magico del rock, del soul, del rhythm and blues, come il Whiskey A Go, quando sul palco c'era un giovanissimo, grandissimo artista come Otis Redding. Adesso parliamo di un personaggio invece più o meno contemporaneo, Otis Redding, che però è tuttora in vita, anche se le cose certo non gli sono andate ultimamente granché bene, ma resta comunque in quell'empirio dove a personaggi come lui vengono addirittura dedicati dei film. Eccolo qui. I'm Phil Spector and I've been accused of the most heinous crime that one can be accused of, and I'm here to dispel some of the most incredible rumors that have come out about. Questa è la voce di Phil Spector, il produttore discografico probabilmente più famoso della storia del pop, mentre prova in prima persona a scagionarsi delle accuse che invece lo hanno inseguito fino a una condanna a 20 anni. Fino all'ergastolo, non è dato sapere quanto tempo dovrà consumare dietro le sbarre Phil Spector, che peraltro non è giovanissimo, non ha grandi prospettive di uscirne vivo da questa ultima avventura seguita all'omicidio di cui è stato ritenuto responsabile di una giovane attrice che si chiama Lana Clarkson, capitato 2 anni fa dentro quello strano maniere, quello strano castello dove abitava solo come un personaggio un po' maledetto. Però lui, oltre a questo protagonista di fatti di nera deprecabili, è stato anche un genio della musica, uno che ha creato, che ha inventato, che ha generato nuova musica, e il tentativo di far combaciare le due realtà, i due volti, il bianco e il nero di Phil Spector è ora radunato in un documentario che sta destando grande interesse, partecipazione e successo negli Stati Uniti, dove viene presentato nel circuito de sé, e certamente lo vedremo in circolazione in DVD entro pochissimi mesi. Si chiama The Agony and the Ecstasy of Phil Spector, l'agonia e l'estasi di Phil Spector. È diretto da un regista di origini indiane che si chiama Vikram Yayanti, è facilmente rintracciabile, tutti i dati sono facilmente rintracciabili in rete, ed è soprattutto diviso in queste due parti, no? La parte del Phil Spector, personaggio bizzarro, forse anche pericoloso degli ultimi tempi, quello sempre con la parrucca in testa, lui dice perché voleva imitare Einstein, Jay Leno invece sosteneva perché era stato già messo su una sedia elettrica senza che lo sapesse, ma insomma, e invece il genio irascibile ma formidabile che produsse qualsiasi cosa degli anni 60, da Tina Turner a Diana Ross ai Beatles, produsse Imagine, tanto per dirne una, produsse suoni che avevano un imprinting particolare, si chiamava Wall of Sound, il muro del suono, suonavano perfettamente nei vecchi giradischi dove si suonavano i 45 giri, da cui uscivano brani magici come questo qua. Questo si chiama Lost That Loving Feeling, sono i Righteous Brothers. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. Sentite il muro del suono di Phil Spector, allora si chiama The Agony and Ecstasy of Phil Spector, il documentario che ripercorre le vicende artistiche, produttive, musicali, ma anche personali e quindi anche piuttosto tragiche della vita di Phil Spector. Un'ultima segnalazione che vogliamo assolutamente farvi, perché è un personaggio che a più riprese ha attratto assai anche il nostro pubblico, è il nuovo album di Liz Phair, una cantante americana che negli anni, a fine anni 90, ebbe particolare successo anche dalle parti nostre. Era famosa per parlare sporco, per fare dischi che non nascondevano, no? Sottintesi sessuali, un po' una ragazzaccia. Adesso è diventata grande, scrive soprattutto per la televisione, ma finalmente si è tolta la soddisfazione di fare un album di canzoni piuttosto belle. Si chiama Fun Style e questa si intitola Miss September. So if you miss how we were in September, and you wonder if I know what we have, well, I'm sorry that you have to remember, but don't be sad, because I've been happy too. Yes, I have, I wanna spend my life with you. Anni 10, figure. Oh, give me the flashing groin, the spray of the tempest roar. Insomma, figure, forse brutte figure si dovrebbe intitolare oggi questa sezione di anni 10, perché c'è qualcosa che non va oltreoceano, no? Come dire, dobbiamo passare dagli interrogativi ormai stagionati di Salinger su dove finiscono le anatre del Central Park, no? Quando arriva l'inverno, risposta per ora assente, a le invece approfondite, sentite notizie, cronache della possibilità di studiare l'eutanasia per i pellicani del Golfo toccati dalla vicenda, dalla tragedia dell'inquinamento della falla della BP, insomma, dei danni alla fauna locale, ha una notizia che ci ha lasciato letteralmente agghiacciati. Bisogna andare a New York, anzi bisogna andare per la precisione a Brooklyn. A Brooklyn c'è un parco che è come Central Park a Manhattan, a Brooklyn si chiama Prospect Park ed è dove vanno le famiglie e anche tutti gli altri a passare il tempo libero in una bella giornata di sole, e a Prospect Park ci sono, ma sarebbe meglio dire c'erano, le oche. Che cosa è successo? È successo che dopo alcuni incidenti di vario ordine e grado, ma incidenti aerei nei dintorni dell'aeroporto di LaGuardia e dell'aeroporto internazionale di JFK, il comune di New York in sostanza ha deciso di sopprimere qualsiasi forma di volatile d'alta quota, nella fattispecie oca, nel raggio di 7 miglia dai due aeroporti. E guarda caso, Prospect Park è a 6 miglia e mezzo dall'aeroporto di LaGuardia. E di conseguenza, che è successo? È successo che nottetempo squadre di quelli che si vedono nei film, no, di accalappia oche, sono andate a Prospect Park, hanno radunato circa 400, con delle esche suppongo, circa 400 oche, le hanno messe in delle scatole, le hanno portate via in un luogo non meglio identificate, e lì, carissimi, le oche di Prospect Park hanno fatto una bruttissima fine. Forse si poteva fare qualcos'altro, magari si potevano portare da un'altra parte, ma invece il provvedimento è stato davvero draconiano, insomma, e New York oggi piange, resta anche un po' perplessa, ma forse era meglio pensarci prima. Davanti a questa notizia ci sono questi lunghi articoli scritti da habitué di Prospect Park, che dicono quanto è malinconico passeggiare sul laghetto di Prospect Park in assenza di oche. Noi da questa parte dell'oceano questa volta ci sentiamo noi veramente in diritto di tirare su il ditino e dire: ma che cosa avete fatto? Fans are convinced the film captured during CNN program Inside Neverland shows Michael Jackson's ghost. It appears to show the silhouette of a man. Allora, questo è stato un interessante finto scoop di CNN, poi ripreso da tutto il mondo qualche tempo fa, allorché le troupe televisive hanno cominciato a fare ingresso a Neverland, no? Il ranch dove viveva Michael Jackson, per fare i consueti pezzi memorialistici e quant'altro, e naturalmente hanno beccato il fantasma di Michael Jackson. CNN ha dedicato praticamente, anzi Larry King ha dedicato una puntata al fantasma di Michael Jackson, poi hanno fatto tutti gli ingrandimenti e hanno visto che il fantasma di Michael Jackson in effetti era l'ombra di un signore sullo sfondo che passava, e quest'ombra poteva così fare ingannare la vista degli spettatori. Niente fantasma per Geco. E invece però una notizia che ci sembra ben più costruttiva e forse anche in un certo senso pacificante, veicolo di serenità e addirittura di storicizzazione, no, del pop nella memoria di grandi e piccini, ovvero Neverland, invece di essere membrato o venduto a pezzetti oppure trasformato in un condominio per ricconi, diventerà un parco pubblico. Un parco pubblico tra l'altro intitolato al contributo afroamericano alla cultura della California, così hanno detto le autorità facendo l'annuncio, e sarà il nuovo parco dello Stato della California, con il ranch, quindi con il prato e tutte le attrazioni famose, no? Il trenino, vi ricorderete, il parco dei divertimenti dentro Neverland che si era fatto costruire Michael Jackson. C'è anche una biblioteca con 10.000 volumi, perché il ragazzo era di quelli che studiava, e si potrà andare a Neverland, passeggiare, passarci una domenica pomeriggio e naturalmente sullo sfondo sentire, no, l'eco e cercare di capire chi era, che cosa voleva, dove andasse, che cosa suonasse e perché questo strano personaggio che ormai fa parte della storia, e poi naturalmente i più fortunati potranno magari anche intravedere il fantasma di Jaco. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. Dipende, possono farvi venire i nervi oppure piacervi. Sono piacervi a quel punto tanto. Sono i film di Christopher Nolan, questo inglese trapiantato, appena quarantenne, trapiantato a Hollywood, lanciato nel panorama cinematografico delle major con Memento, un filmino piccolo ma con una grande idea dentro, quello di andare in sostanza al contrario, che poi si è legato invece alla saga di Batman con almeno un paio di titoli notevoli, gli inizi di Batman Begins e poi il Cavaliere Oscuro. Adesso torna con quello che lui stesso definisce il suo progetto più ambizioso, c'è dentro Leonardo DiCaprio e quindi non può essere altrimenti. Ci interessa segnalarlo soprattutto ai cultori della fantascienza. Nolan ha scritto, come fa di solito, la sceneggiatura del film in prima persona, ma qui davvero siamo dalle parti di una nuova, no, di un nuovo fronte della fantasia nella scrittura cinematografica, perché è un film ambientato nel mondo dei sogni, naturalmente con tutta la virtualità, tutta la tecnologia possibile e immaginabile. Ci sono dei detective dei sogni, in sostanza, che si occupano anche di rubarli questi sogni e magari di farne poi mercato. E quindi che succede? Succede nel mondo dei sogni, ogni logica cade e tutte le questioni, no? le regole della narratività si aprono a nuove soluzioni. Forse in questo Christopher Nolan, che è un innovatore di Hollywood, potrebbe aver trovato una soluzione a quel vecchio adagio proprio della città del cinema, tanto in voga di questi tempi, che tutte le storie sono già state raccontate. Tell me that the message or something, right? Because you're doing something trying to breastfeed with fucking foreign bodies in you. Was that it? It has nothing to do with it. Oh, it had nothing to do with what? The fact that you had foreign bodies in there? Correct. Correct, okay, good. So you're not lying to me about fake tits. Vabbè, finiamola qui perché ci ha sconcertato, ci ha preoccupato, poi non avendo neanche una particolare simpatia per il personaggio ci ha fatto un po' anche arrabbiare. È la famosa telefonata che forse ha messo una pietra tombale sulla carriera da divo, da star di Mel Gibson, ma che però al tempo stesso ci sembra così, no, così anni 10, così consono. Pensate un po' se mai negli anni 50, 40, 50, 60 fosse avvenuto un episodio del genere, no? Fosse emerso con la titolarità di uno stimatissimo attore, regista, di uno dei personaggi, in certo senso che hanno rappresentato anche dei modelli di Hollywood, come Mel Gibson, fosse emersa una telefonata di questo tenore in cui per 8 minuti non fa altro che minacciare di botte, di punizioni, di non fa altro che insultare la sua consorte per i peccati secondo lui più inaccettabili, tipo essersi rifatta alcune parti del corpo. È un episodio inquietante che però, come dicevamo prima, ci sembra, no? Ci sembra in qualche modo connesso a quell'immaginario un po' deragliato che fa spesso parte dell'universo dello spettacolo e anche della cronaca, questa ormai licenza di dire, no? Questa licenza di questo consentirsi ogni in questo caso ogni bestialità che anche una stella come Mel Gibson ora per fortuna speriamo sia destinata a pagare. Poi ci sarebbe la vicenda Polanski da aprire, ma magari i ragionamenti al riguardo li rimandiamo ad un'altra volta. La reprimenda non è sufficiente, tra l'altro non è neanche la prima volta che Mel Gibson ci cade, i suoi più cari amici provano a giustificarlo e a dire guardate, non è lui, quando lo sentite così è un uomo torturato dalla questione dell'alcol, cercate di essere indulgenti. At our pace, with our plan, on drive. Avete voglia di essere indulgenti in questi casi? Io non so, veramente un personaggio pubblico, i personaggi pubblici, no? Questo è un oggetto di discussione quotidiano, dovrebbero farsi carico della propria pubblicità, no? E quindi in un certo senso goderne i meriti, ma portarne anche il senso, la rappresentatività presso il grande pubblico. Negli anni 10 succedono cose di questo genere, io ve le racconto. Sono Stefano Pistolini, una volta a settimana qui da Radio 24 con Gloria Guerrera in redazione, Valerio Rocchetti in regia, un profilo Facebook che si chiama Anni 10 Radio 24, una mail anni10@radio24.it, un appuntamento tra 7 giorni e un augurio a tutti di stare benissimo.